benvenute a Sisterhood is Blooming, in studio qui da Radio Onda Rossa, all'interno del martedì gestito da femministe e lesbiche, del quale vi ricordiamo anche il blog, se volete comunicare con la redazione, che è mfla.noblogs.org. Prima di cominciare a farvi sentire un po' di musica, in studio siamo Donna Sonica e la Music. E vi diamo un po' di riferimenti. Intanto, se volete squillarci per farci sapere che vi piace quello che state ascoltando, 0649 1750 è il numero della radio. Il nostro blog, se volete leggere le nostre playlist che saranno online domani, twowomenshow.wordpress.com, due scritto al numero. E se volete twittare con noi mentre parliamo, siamo su Twitter e ci cercate su Sister on Air, scritto AIR. E mi pare che basti, insomma, questi sono i nostri contatti. Possiamo passare a farvi ascoltare un po' di musica. La nostra idea è quella di farvi ascoltare un po' di musica nuova e darvi anche un po' di notizie, di date interessanti di artiste che sono in giro a Roma o in Italia, e magari anche attraverso il Twitter, se ci comunicate, se vi serve un passaggio, avete un biglietto da qualche parte, o se vi serve qualcuno con cui dividere le spese, ce lo fate sapere e noi vi mettiamo in contatto. Quelle che state sentendo sotto la mia voce sono i Grand Old Party della fantastica Christine Gundred, che nei Grand Old Party batteria e voce, e invece nelle Doom Doom Girls, che qualcuno di voi avrà sicuramente sentito, suona la chitarra ed è anche voce del gruppo. Le Doom Doom Girls, sapete, è una bellissima indie female band. Loro saranno in concerto il 20 aprile a Milano, il 21 aprile a Roma e il 22 a Bologna, quindi avete diverse possibilità di ascoltarle. È appena uscito un EP che si chiama He Gets Me High, e il pezzo che andiamo ad ascoltare, per darvi un'idea delle Doom Doom Girls se non lo conoscete, si chiama il pezzo che dà il titolo all'album, He Gets Me High. Loro sono le Doom Doom Girls. Yeah. Queste erano le Dun Dun Girls. Io volevo parlarvi invece di Anna Calvi, che sarà al Circolo degli Artisti l'11 di aprile, quindi è perfetto, insomma, questa puntata parte insomma, subito con il live. Anna Calvi, padre italiano, nasce a Londra, però appena può, appunto, passa più tempo possibile a Roma. Lei prende ispirazione da PJ Harvey, da Bowie, dalla Piaf, ma anche da Debussy, Ravel e soprattutto dal cinema di David Lynch e Wong Kar-wai. È un'ottima chitarrista dal timbro vocale profondo e lirico. La sua musica viene definita gothic pop melodrammatico. L'album omonimo nasce il 17 gennaio del 2011 per la Domino Records, che è un'etichetta indipendente britannica. Quindi, prima di ascoltarla live l'11 al Circolo degli Artisti, ce l'ascoltiamo qui. A me ricorda molto Siouxsie, comunque. I titoli degli brani che vi faremo ascoltare, il primo è I'll Be Your Man e poi in sottofondo avremo Suzanne and I. Questa è Anna Calvi. Questa era la scelta di La Musique, Anna Calvi, I'll Be Your Man. Io invece vi propongo una giovane artista del Texas che è Jan Hunter. Qualcuno di voi l'avrà già ascoltata o ne avrà già sentito parlare per la sua collaborazione con Devendra Banhart, insomma il Gesù pazzo del new folk o del freak folk, come qualcuno lo chiama. Diciamo che oltre alla collaborazione con Devendra, Jan ha fatto un paio di album da solista abbastanza in stile monofreak, come lo chiamo io, cioè più monologhi che, insomma, pezzi scritti per se stesso più che per farli ascoltare. È un personaggio molto interessante, a me è piaciuto molto il suo live dell'anno scorso. molto intimista. E intanto lei ha questo progetto nuovo che invece vi voglio far ascoltare stasera, che è pubblicato dalla Gnomo Song, che è l'etichetta di Devendra Banhart, e mixato da un certo Cody, che per chi è appassionato del genere ha anche mixato il meraviglioso album Teen Dream dei Beach House. Le atmosfere dell'album sono piuttosto dark, la band che l'accompagna si chiama Lower Dance e l'album da cui abbiamo tratto, da cui tiriamo fuori questo pezzo che voglio far ascoltare, si chiama Two Cox, l'album si chiama Twin Hands Movement, loro sono il Lower Dance. Io passerei a un gruppo che amo molto, si chiamano Bell Rush, sono un trio di elettropop e loro hanno influenze sia blues che soul, si alternano fra Francia e Gran Bretagna. La leader è la cantante Catherine De Beer, coadiuvata da Ricky Fabulous, il chitarrista, e da DJ Modest. Si ispirano a sonorità del jazz, a voci del jazz come Sarah Vaughan, Nina Simone, e il timbro vocale delle melodie mi fanno pensare spesso a Roisin Murphy dei Moloko. Nel 2007 debuttano con un album che è il mio preferito, si chiama Turntable Soul Music. Nel 2008 invece nasce un CD di vari remix e nell'autunno del 2010 l'album nuovo dal quale vi faccio ascoltare un pezzo, che è 278 Stories, il titolo dell'album. Sono ora in tour in Europa e speriamo di averli presto anche in Italia. L'etichetta è la True Thoughts Records, un'etichetta di Brighton. Vi faccio ascoltare un brano che si intitola Ginger Wine. Loro sono Ben Rouge. Watch the moon wake the stars, take us to sunrise. I'm a stranger, one can trust. Story ever safe and us. Tune into the radio. Questa è Ben Rouge, la selezione della Musique, il pezzo si chiamava Ginger Wine. Io intanto vi ricordo il nostro Twitter account, che è Sisters on Air, tutto attaccato, così potete twittare con noi mentre siamo in onda. E io passo a parlarvi di un personaggio piuttosto famoso. Lei è Amanda Palmer, molti di voi la conosceranno soprattutto per la produzione che ha fatto con il duo Dresden Dolls, e dal quale Amanda si è presa una piccola pausa, intanto per pubblicare un primo album fantastico che si intitola Who Killed Amanda Palmer. Il titolo è ispirato al tormentone di Twin Peaks, non so se ve lo ricordate, Who Killed Laura Palmer. E adesso ha appena autoprodotto il suo secondo album, che si chiama Amanda Palmer Goes Down Under, ed è una raccolta di nuovi pezzi registrati live, più che altro con ukulele e piano, più un pezzo pazzo in studio. E vi parlo di Amanda anche per una bella cosa che è successa ultimamente. Amanda ha vinto lo Shorty Awards, non so se lo conoscete. Lo Shorty Awards è un premio che va ogni anno alle persone che sono distinte in vari campi, media, musica, cinema, e che hanno utilizzato in modo creativo e attivo Twitter. Amanda su Twitter ha qualcosa come circa 500.000 persone che la seguono, compresa me, e da lì ha raccontato un po' di cose che le succedevano nel tour, le produzioni che fa, gli album che sta lanciando, eccetera, eccetera. Quindi tiene aggiornati e anche chiacchiera con i suoi fan e anche ci lavora insieme. È molto divertente il suo modo di raccontare le cose, così come sono divertenti i suoi pezzi. Vi dico un tweet per tutti, due punti, ennesimo check-in, invece di togliermi le cose dalla tasca mi sono sfilata i pantaloni, la gente ha applaudito. E questo è stato un tweet fantastico perché ha avuto 10.000 commenti di sei un genio, compreso il mio. Map of Tasmania è il pezzo che ho scelto per voi da questo album. Non so se avete presente la forma della Tasmania. Ecco, è più o meno, se alzate le mani e le unite a triangolo, ecco, quella è la forma. Map of Tasmania è il pezzo che ho scelto dall'album Amanda Palmer Goes Down Under. Lei è la sola, unica Amanda fucking Palmer. Ed Amanda Palmer, passiamo a Essie Jane, che prende ispirazione proprio da Amanda Palmer, Dresden Dolls, PJ Harvey e Shannon Wright, che piace molto alla mia sorella Donna Sonica. E lo stile di Essie Jane però è un po' più barocco, gli arrangiamenti sono orchestrali, lei ama molto gli ottoni, come sentirete nel pezzo che vi farò sentire. E Essie Jane è londinese, è una pianista compositrice e ora vive a New York. Ha pubblicato tre album, però vorrei farvi ascoltare due brani, in particolare uno del secondo, che è a mio avviso più significativo. L'album si chiama The In Between ed è del 2008. Una curiosità è che Essie Jane pubblica su due etichette, la Bada Bing Records per l'America e la Leaf Label invece per tutto il resto del mondo. Il brano che vi voglio fare ascoltare questa sera di Essie Jane si intitola Here We Go. Say, oh, e questa era Essie Jane nella selezione di La Musique e il brano si chiamava Here We Go. Vi ricordate Le Tigre che tanto ci piacciono e ci hanno fatto ballare? Vi ricordate J.D. Samson, F2M del gruppo, attivista per i diritti dei gay, dei trans, artista poliedrica, fotografa, musicista, visual artist? Ecco, tra i vari progetti di J.D. Samson vi segnaliamo Men, scritto M-E-N, con Joanna Feynman, che è un'altra l'altra componente delle Tigre, Michael O'Neill, Ginger Brooks, Takahashi e la visual artist Emily Royston. E inizialmente la band ha fatto un album in cui sostanzialmente remixava pezzi di altri, invece in febbraio di quest'anno è uscito un album originale che si chiama Talk About Body. Attualmente sono in tour negli Stati Uniti e saranno il 28 aprile a Bologna, quindi insomma se volete, se vi piace quello che vi facciamo ascoltare, potete anche vederveli dal vivo al Covo di Bologna, che sembra un posto molto carino. E vi ricordo il titolo dell'album, che si chiama Talk About Body, la band si chiama Men e il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Who Am I To Feel So Free. E siccome non parte il pezzo, vi ricordo giusto... Dopo Men, io passerei proprio a tutt'altro stile. Vi parlerei di Kinney. Kinney è una cantante canadese che nasce da genitori giamaicani e francesi e ora vive in Norvegia, una viaggiatrice. Comincia il suo percorso, anche lì è una viaggiatrice musicale perché comincia il percorso come cantante d'opera per poi virare verso il jazz, il funk, il soul, l'R&B. I brani che vi farò ascoltare sono del suo primo album, a tratti questo album può ricordare Erykah Badu, Jill Scott. Anche lei, come Berrush, incide per la True Thoughts Record e collabora con numerosi DJ dell'etichetta in questo disco. Il suo primo album del 2009 si intitola Idle Forest of Chit Chat, a breve uscirà il secondo. Una donna che dà il meglio nei live, speriamo di averla presto in Italia, ancora non è venuta in Italia. Ci ascoltiamo questo brano di Kinney che si intitola Forgetting to Remember. Stuck in the middle of loneliness, stuck in the middle of patheticness. I did so many things on purpose just to hurt you, and now I'm feeling so much regret for putting you through so much stress. I'm such a difficult case for you. Things I said and did to you. I'm stuck in the middle of emptiness, stuck in the middle of patheticness. I did so many things on purpose just to confuse you, and now I'm feeling so much regret for putting you through so much stress. I'm such a difficult case for you, for you. And thank God you don't remember all the things I did. Questa era Kinney della selezione della Music e io invece faccio ascoltare qualcosa di diverso. Ostra, che è un trio di Toronto composto da Katie Selmanis alla voce, Maya Postemski al drums and programming e Dorian Wolf al basso. La leader è Katie Selmanis e Maya, appunto la drummer, sono due attiviste gay appunto canadesi. Katie ha studiato viola e piano, quindi un'impostazione classica ma una vena molto elettronica come il trio che vi facciamo ascoltare fra poco. L'album dal quale è stato estratto questo singolo, che potete scaricare liberamente dal loro MySpace, quindi basta cercarli, si chiama Feel It Break ed è mixato da un tipo che ha mixato anche roba di Bjork, Prodigy, non so se avete mai sentito queste cose. L'album uscirà a maggio per la Domino Records, quindi vi stiamo facendo ascoltare qualcosa di abbastanza nuovo. Saranno in concerto domani sera alla Limonaia di Firenze e giovedì sera, quindi il 7 aprile, qui a Roma al Circolo degli Artisti. Intanto vi faccio ascoltare il singolo, appunto scaricatelo perché è molto bello. Il titolo è Beat and the Pulse e loro sono Yostra. dopo Ostra, selezionata da Donna Sonica, io vi voglio parlare di Nara George, californiana, cantante, bassista e chitarrista. E Nara George ha contemporaneamente tre progetti musicali: è la leader del gruppo elettropop The Bird and the Bee, è membro delle Living Sisters, sono un trio vocale molto carino al femminile, che fanno pezzi tipicamente jazz swing, jazz swing anche diciamolo, ha un progetto solista indie folk del quale volevo farvi ascoltare appunto un brano. Lei è figlia di padre musicista di rock and roll, appassionata di teatro e in particolare di Shakespeare. Nasce a Santa Monica, poi si sposta a Boston per studiare recitazioni e dopo aver provato a suonare nella band della scuola di recitazione si rende conto però che la sua passione è la musica, e quindi la ringraziamo insomma dei pezzi che ci regala. A me ricorda parecchio Karen Ann, e vi voglio far ascoltare un brano dal suo disco del 2006 per la Loose Music. Il titolo dell'album è All Rise e il brano si intitola Mistress. Lei è Nara George. the same. E questa era Mistress, il pezzo. E lei, devo dire la verità, mi sono scordata come si chiama, perché la selezione della musique, quindi giustamente appartiene a lei. Io intanto vi ricordo il numero di telefono, quello me lo ricordo, 49 17 50 06, per farci sentire che vi piace, che ci siete o quello che vi pare. E il nostro Twitter, che è System On Air, se ci volete messaggiare in diretta. Io intanto vi presento una band, un duo a cui tengo molto. Loro si chiamano i Wyoak. Il Wyoak è l'albero simbolo del Maryland, una quercia di circa 500 anni che è un tornado distrutto, vabbè, insomma, però è il nome di questo duo. Loro appunto vengono dal Maryland. La cantante e straordinaria chitarrista si chiama Jen Wassner, e Andy Stack è alla batteria con la mano destra e al basso tastiera con la mano sinistra. Loro prima si chiamano Monarch e hanno realizzato 3 album in tutto, l'ultimo appunto col nuovo nome, che è Wyoak, si scrive W-Y-E-O-A-K con la K finale. L'album si chiama Civilian, è uscito in Europa per la City Slang, decisamente più interessante e maturo rispetto ai precedenti, e vi consiglio di scaricarlo perché si trova in rete. Sono in tour come gruppo spalla dei Cold War Kids e saranno in Europa in giugno. Per ora non ci sono date in Italia, ma speriamo che se ne aggiungano. Comunque, se fate un salto da Amsterdam, Londra, Berlino intorno a giugno, li potete vedere, magari ci raccontate il loro live. Intanto ci sentiamo una delle tracce più folk e più tranquille di tutto il disco, che dà il titolo all'album. Loro sono i Wyoak e il pezzo si chiama Civilian. E questi erano i White Oak. Io vi volevo parlare invece di un altro gruppo, un gruppo francese, si chiamano Lilywood and the Prick. In realtà sono Nili e Ben. Nili è la leader e cantante. Loro si conoscono in un caffè parigino e nel 2006, il giorno dopo, compongono già il loro primo pezzo. Vivono a Parigi e scrivono brani indie pop in francese e in inglese con parecchie influenze electro. E dicono di essere influenzati da Johnny Cash, Patti Smith e Joy Division. Il loro primo album esce nella primavera del 2010, si intitola non a caso Invincible Friends, e il titolo del singolo che trascina l'album è Down the Drain, che vi farò sentire fra poco. L'etichetta è la Sunset di Parigi. E altri artisti interessanti questa etichetta, tra cui The Do, che vi faremo sentire nelle prossime puntate. Quindi Nili e Ben, ora li troviamo in un tour estivo in Francia, Belgio, Svizzera, Lussemburgo. Ancora dell'Italia non se ne parla, però penso che insomma li potremo vedere presto. Il singolo appunto estratto dal loro primo album è Down the Drain e loro sono Lilywood and the Prick. Molto estivo questo pezzo, devo dire la verità, nella tua playlist, la music. È uscita a maggio dell'anno scorso. Infatti. E io invece chiudo la mia playlist di questa sera, Sisterhood is Blooming, qui su Radio Onda Rossa, nel martedì autogestito da femministe e lesbiche, con un'artista che mi fa impazzire. Lei si chiama Emily Wells. Nasce come violinista, ma utilizza moltissimi strumenti durante le sue performance e anche durante le registrazioni degli album, dai piano giocattolo ai veri e propri synth. La sua musica è veramente un mix poco definibile, cioè dalla classica all'hip hop, mescolando tra questi due estremi un po' tutti i generi. Ci sono due album ufficiali all'attivo, più un sacco di cassette e materiale autoprodotto che ha girato, il materiale ha girato tra New York e Los Angeles, che sono le due case di Emily Wells, quindi è così che si è fatta conoscere fondamentalmente. Un album ufficiale si chiama Beautiful Sleepy Head and the Laughing Yaks, che è un album più folk, anche molto più elaborato da un punto di vista degli arrangiamenti, e invece poco fa è uscito un EP che si chiama Dirty, dal quale estraiamo il pezzo di questa sera. Il pezzo si chiama Symphony 6 Fairly Well and the Requiem Remix, e lei si chiama Emily Wells. Emily Wells, bello questo pezzo da Sonica, piace molto. E da elettronica a elettronica volevo farvi ascoltare Glasser, californiana di Los Angeles, figlia di musicisti, appassionata di arte contemporanea, è al suo primo disco e fonde ritmi tribali con l'elettronica e melodie evocative, talvolta new wave, viene paragonata un po' a Björk, un po' a Enya. E il primo album, appunto, di cui vi stavo parlando si intitola The Ring, è uscito nell'autunno del 2010 per la True Panther Sounds e si è fatta conoscere al pubblico dei concerti, soprattutto per aver aperto i live degli XX e di Yonsi dei Sigur Rós. Vi faccio ascoltare appunto il singolo che ha fatto conoscere il suo album, si chiama Mirror Age, e ascoltiamo ora Glasser. E questo era l'ultimo pezzo per questa sera da Sisterhood is Blooming. Donna Sonica e La Musique vi hanno presentato la loro playlist, vi hanno dato un po' di date, vi danno appuntamento non a martedì prossimo ma al martedì dopo ancora, che è il 19 aprile, qui da Radio Onda Rossa, nello spazio Martedì autogestito dalle lesbiche e femministe. E intanto vi lasciamo i riferimenti su Twitter, ci trovate a Sisters on Air, e invece il nostro blog, dove troverete anche la playlist che abbiamo suonato questa sera, se vi piace qualcosa, se volete trovare, e possibilmente download se ci sono, che è www.twowomenshow2 scritto il numero, quindi twowomenshow.wordpress.com. Noi vi salutiamo e ci vediamo martedì 19 aprile con i Beach House, un pezzo che adoriamo, Used to Be.